L'altro pianeta di Laura Bettini. Siamo costantemente bombardati dai problemi che dobbiamo affrontare e qualche volta ci sentiamo schiacciati da questi pesi. La storia del colibrì parla di un'enorme foresta divorata dalle fiamme. Tutti gli animali scappano fuori e fissano la foresta che brucia e si sentono oppressi, senza forza. Eccetto questo piccolo colibrì che dice: «Farò qualcosa per fermare il fuoco». E vola al ruscello e prende una goccia d'acqua e la butta sul fuoco. E poi comincia ad andare su e giù, più veloce che può. Intanto gli altri animali, animali grandi come l'elefante, stanno lì a guardare e dicono al colibrì: «Che pensi di fare? Sei troppo piccolo. Le tue ali sono piccole, le tue zampette sono piccole. Puoi portare giusto una goccia d'acqua alla volta». Ma mentre quelli continuano a scoraggiarlo, il colibrì si volta verso di loro senza fermarsi e risponde: «I'm doing the best I can. Sto facendo del mio meglio. È quello che cerco di fare io e che dovremmo fare tutti, fare come il colibrì. Posso anche essere insignificante, ma di certo non voglio fare come gli animali e stare a guardare mentre il nostro pianeta va in rovina. Farò come il colibrì, farò del mio meglio». La voce che avete ascoltato, tratta dal film Dirt, diretto e prodotto nel 2009 da Bill Benenson e Ginny Rosso, la voce, dicevamo, era quella di Wangari Maathai, premio Nobel per la pace nel 2004, scomparsa lunedì scorso a 71 anni. Fu la prima donna keniana a ottenere una cattedra all'Università di Nairobi, la prima ad unire la battaglia ambientalista a quella per l'emancipazione delle donne, la prima africana a vincere un premio Nobel. Negli anni il suo movimento Green Belt ha piantato milioni di alberi, frenando la desertificazione, ma anche dando lavoro e prospettive di una vita migliore a migliaia di donne impiegate nel ruolo di guardaboschi. Insomma, era davvero un instancabile colibrì. Oggi parleremo di città intelligenti, di smart cities. Lo faremo a partire da una discussione che si è svolta a Firenze durante il Festival dell'Energia, che era organizzato da Aris e da Federe Utility. Ma prima di iniziare la nostra puntata dedicata alle smart cities, Alessandro Beul, che davvero era un personaggio, Wangari Maathai. Sì, assolutamente, è stato un personaggio, Nobel per la pace nel 2004, e ha lasciato un esempio importante. Tutti ricordiamo le campagne contro la deforestazione in Kenya a fine anni 80 e 90, e anche al festival, fra l'altro, abbiamo parlato parecchio d'Africa, quando ancora questa notizia, purtroppo questa cattiva notizia non ci aveva raggiunto, ma abbiamo parlato d'Africa perché assieme a COPI, una ONG, stiamo tentando di organizzare delle missioni per portare eventuali finanziatori a guardare e a toccare con mano i progetti che questa ONG ha in Etiopia, progetti di sostenibilità energetica per le comunità che non hanno ancora accesso all'energia. Ricordo che 1.400.000.000 di persone ancora nel mondo non hanno accesso all'energia. Alessandro Beulke è presidente di Aris, quindi uno degli organizzatori della Tre Giorni di Firenze. Gli chiediamo perché inserire una discussione sulle città intelligenti in un festival dell'energia. Città è, diciamo, il luogo dove grandi collettività si riuniscono per vivere, ed è chiaramente una città un organismo energivoro, quindi consuma tantissima energia, produce anche tantissimo inquinamento. Ripensare questi grandi agglomerati, quindi ripensare il modo di vivere la collettività anche in un senso energetico, è senz'altro la sfida del futuro. Quindi smart city, che cosa vogliono, che cosa sono? Le smart city sono quelle città che possono essere maggiormente sostenibili da un punto di vista di impatto ambientale, con uno sfruttamento delle risorse più intelligente, ecco di nuovo la parola intelligenza, e con un approccio al tema dell'energia che sia altrettanto intelligente. Le smart cities, le città furbe, intelligenti, come dicevamo, non sono certo un'invenzione di questo festival. Il festival, al contrario, ha offerto momenti di confronto su un programma, appunto Smart Cities, su cui la Commissione europea è già impegnata da tempo. Amsterdam è stata una città pioniere, attenta alla mobilità, alla società, alla vivibilità. E tante altre città del nord Europa sono già sulla via dell'intelligenza. Ma anche le città italiane, e specialmente quelle storiche, hanno all'origine tutte le carte in regola per diventare come Amsterdam. Furono concepite con criteri di sostenibilità e risparmio delle risorse, solo che nei secoli hanno preso un'altra piega. Ma nulla è perduto. L'Unione Europea ha stabilito che le smart cities sono una delle 7 priorità dell'Unione e ha pianificato un investimento fino al 2020 di 11 miliardi. Così è nato un network, una rete di esperti europei che stanno studiando l'esistente, le eccellenze, le criticità di industrie e città del continente. All'ENEA, l'Agenzia Italiana per le Nuove Tecnologie, è affidato il coordinamento degli studi europei sulle reti energetiche urbane. Mauro Annunziato, ingegnere e ricercatore dell'ENEA, è il delegato italiano per ERA Smart Cities. L'idea della città sostenibile non è sostenibile soltanto perché consuma di meno, ma anche perché la vita stessa è più sostenibile, quindi la partecipazione sociale, l'economia e così via. E quindi è un'unica cornice in cui tanti aspetti si tenta di integrare tanti aspetti. E in questo senso si fa un uso intensivo delle tecnologie, dell'informazione e delle comunicazioni per creare il collante fra tutte queste tematiche, per questo diciamo la parola smart, furba. Ma insomma, cosa succede in una smart city? Facciamo un esempio, nel caso dell'eliminazione pubblica non ha molto senso illuminare tutta la notte nello stesso modo situazioni che magari in alcune ore della notte il traffico oppure le persone che passano sono molto poche rispetto magari ad ore di punta tipo la sera, insomma. Quindi l'energia di illuminazione che si dà viene graduata in funzione dell'ora. Capite che cosa significa poi qui smart? Smart è la capacità di mettere dei sensori, analizzare questi dati e poi dopo controllare il sistema. Ma una volta che io ho inserito una telecamera per controllare i flussi e quindi l'illuminazione, io ho un'informazione importante, posso conoscere i flussi veicolari, cioè quindi quell'informazione può essere utile anche per definire i piani di traffico, per dare informazioni sulla mobilità e per esempio per regolare, non so, i semafori e così via. Ma poi per esempio la telecamera può essere utilizzata anche per la sicurezza e quindi cominciano a sommarsi queste funzioni. Ed è scienza, non fantascienza, per citare un vecchio slogan, di cui potremmo godere più facilmente di quanto non stiate pensando. Tutto quello che ho detto è possibile grazie al fatto che recentemente si sono sviluppate una serie di tecnologie di comunicazione molto competitive, per esempio parlo delle PLC, che significa Power Line Communication, che vuol dire la capacità di mandare segnali digitali, quindi anche a banda larga, attraverso le linee elettriche. E quindi scopriamo che le nostre città sono già cablate attraverso il sistema di illuminazione pubblica. Detto questo, è chiaro che con interventi opportuni anche le nostre città più antiche e pregiate potrebbero diventare smart, senza interventi drastici o radicali. Basta non avere paura dei cambiamenti. Aris, di cui come dicevamo è presidente Alessandro Beulke, gestisce anche il NIMBY Forum, l'osservatorio che in Italia monitora le contestazioni ai progetti di pubblica utilità. NIMBY significa Not in my backyard, non nel mio giardino. Quindi, insomma, le innovazioni sì, ma costruite un po' più in là. È chiaro che i cambiamenti, i mutamenti fanno sempre paura. Il punto è che sono necessari. È chiaro che poi il fenomeno NIMBY può essere largamente contrastato quando il fenomeno NIMBY è scorretto, perché c'è anche un NIMBY corretto che poi evidenzia una affezione di una cittadinanza rispetto al proprio territorio. Quindi io voglio vedere e capire bene che cosa si viene a realizzare davanti a casa mia. Però a volte ci sono dei NIMBY che vanno molto oltre. Ecco, questo tipo di NIMBY può essere contrastato con una buona informazione. Semplicemente, che non vuol dire propaganda, vuol dire una buona informazione. Per esempio, per mettere le colonnine per la ricarica delle auto elettriche, è chiaro che si dovranno fare degli interventi nelle città e quindi aprire le strade, eccetera, eccetera. È chiaro che questo comporterà dei disagi sul breve periodo, però dobbiamo guardare tutto in un'ottica di lungo periodo. Torniamo alla Smart City, che, così come la si intende nel programma europeo, è una città di dimensione medio-grande, ma non grandissima, in cui si punta a ottimizzare la gestione delle risorse energetiche e o dei trasporti, grazie alle nuove tecnologie, ottenendone vantaggi ambientali e sociali. Una rivoluzione che richiede progettazione e denaro. Bene, se c'è un progetto pronto, entro dicembre, l'Europa può aiutare finanziariamente, sempre che il progetto sia approvato. Bari, Genova, Torino hanno già cominciato a mettere a punto il loro piano. Altre città sono più indietro, Firenze, Parma, Milano, solo per fare qualche nome, ma se anche non arriveranno in tempo per la call europea, cioè il bando europeo, potranno sempre pensare di trovare fondi altrove, perché la Smart City, ricorda Mauro Annunziato, non è un bollino di qualità. Non è comunque un ecolabel che uno dice se non me lo fa quell'ente lì non lo posso fare. No, è una cosa che io faccio un progetto che sta all'interno di questi confini della Smart City, però insomma... Certo, e mette in movimento risorse industriali, sociali e dell'amministrazione pubblica. Per questa prima call ci sono 40 milioni di euro, non moltissimi quindi, utili più che altro per la progettazione degli interventi, ma non per la loro realizzazione, per la quale bisognerà o fare da sé o aspettare la seconda call europea. Comunque, bando, progetto, approvazione, finanziamento. Ci sembrava di aver capito bene, invece? Quello che si finanzia non è la città, ma una cordata, cioè servono almeno 3 città europee che si mettono d'accordo. E devono essere di 3 nazioni diverse. Chi presenta il progetto è un consorzio europeo di 3 città e poi una platea di istituzioni di ricerca, di aziende e così via. Non c'è lo spazio con questi fondi per realizzare le città, ma c'è spazio per progettarle. Però magari io mettendomi insieme ad Amsterdam e Lisbona mi chiarisco le idee. Sì, mi chiarisco le idee e trovo uno che so io che fa il lavoro in tutte e 3 le città, magari se si tratta di illuminazione, che quindi trovo, magari interessa partecipare, non lo so. Assolutamente, posso trovare un modo per fare economie, perché fare comunque... economie, certo, per esempio il caso potrebbe essere le città turistiche o città d'arte, no? Diciamo, certo. È chiaro che le cordate tenderanno a cercare una propria specificità, in modo che alla fine a livello di Europa noi avremo un certo numero di tipologie di smart city che rappresenteranno degli esempi. Chiarito questo punto della cordata di città, passiamo ad una delle aspiranti smart city italiane. Come dicevamo, nessuna ha già completato il progetto da sottoporre alla giuria europea, ma alcune sono più avanti di altre, e Bari è tra quelle. Su cosa vuole concentrare il suo progetto di sostenibilità? Mobilità ed energia rinnovabile, dice il sindaco Michele Emiliano, e poi aggiunge. Evidentemente, prima di tutto, stiamo cercando i nostri partner. Questi partner ovviamente saranno fondamentalmente le grandi industrie italiane che si occupano di energia. L'Enel in questo momento sta sostenendo questo sforzo progettuale da parte della città con tutto il suo know-how e soprattutto con la sua determinazione. Poi ovviamente qualche tempo fa, nel 2008, noi abbiamo aderito al patto dei sindaci lanciato dall'Unione Europea e questo ovviamente ci colloca già verso gli obiettivi di Smart Cities, ma soprattutto ecco, credo che Bari abbia quella forza, quella velocità anche amministrativa che è necessaria per partecipare e per vincere una sfida come quella di cui parliamo. E ammette lucidamente. Gli obiettivi peraltro non sono solo quelli ambientali, sono anche quelli di una migliore gestione economico-finanziaria delle amministrazioni comunali. Se noi riuscissimo a gestire adeguatamente la produzione di energia in sede locale, il comune e tutti gli abitanti della città avrebbero dei risparmi molto, molto, molto importanti che sono in questo momento sempre più necessari. L'altro pianeta. Seconda parte dell'altro pianeta, riprendiamo come sempre con l'intervista di Cristina Carpinelli questa settimana per parlare di alimentazione. Oggi parliamo di cibo, lo facciamo con Nicola Sorrentino, un dietologo autorevole che assieme ad Alan Bai ha scritto il libro Cosa mangiamo? La dieta degli italiani, la dieta mediterranea, passando dal bio, da un consumo critico del cibo, dall'attenzione per la breve distanza. Questi alcuni dei temi che abbiamo trattato insieme a Sorrentino in questa intervista, partendo dal libro che è un vero e proprio vademecum per il consumatore di oggi. Sono circa 250 gli alimenti presentati nel libro, descrivendone proprietà, virtù, storia, composizione chimica, principi nutrizionali e anche suggerendone l'utilizzo migliore in cucina, quindi tantissime ricette. Dottor Sorrentino, la prima domanda che le rivolgo, ovviamente lei si trova all'interno di una trasmissione che si occupa di temi ambientali e dunque la prima domanda che le rivolgo è: quanto spazio avete dato nel vostro libro al tema dell'agricoltura biologica? Certamente noi parliamo anche del cibo biologico, logicamente facendo attenzione e dicendo le proprietà anche del cibo biologico, se fa bene fa male o a volte si esagera. Perché c'è anche la possibilità che faccia male il cibo biologico? Non c'è niente che fa male, la quantità che fa male. Una cosa che fa bene può far male, per cui non è la quantità, ripeto, ma è non è la qualità ma è la quantità. Quanto dal suo osservatorio le persone oggi fanno attenzione alla qualità dei cibi e all'impatto che la dieta che loro hanno può avere sull'ambiente? Oggi si fa molta attenzione e si parla molto di salutismo, per cui i giovani sono molto più attenti delle persone più in là con l'età per come mangiano e anche per come vivono. Diciamo che lo stile di vita corretto con l'attività fisica e soprattutto quello che mangiamo oggi si fa una grossa attenzione. E questo è veramente un vero vademecum dove ci sono le proprietà, la composizione chimica, la storia, le calorie, ma la stessa curiosità dell'alimento. Curiosità intesa di un alimento che non se ne sa niente. Faccio degli esempi, per esempio il basilico allontana le zanzare, oppure sempre sul basilico, se mangiamo le foglie giovani sono tossiche perché contengono una brutta parola, il metil eugenolo, che è una sostanza tossica, oppure nessuno sa che il burro ha meno calorie dell'olio. E così via. Come per tutto, anche nella nutrizione, nella scienza dell'alimentazione ci emancipiamo. Cosa significa? Abbiamo studiato. Se una volta potevamo dire che dovevamo mangiare la carne ogni giorno, oggi probabilmente diremo che la carne rossa in modo particolare non bisogna eliminarla, ma bisogna mangiarla solo, non dobbiamo superare le 2 volte a settimana, non c'è niente che fa male e per cui dobbiamo, il buon senso è quello che ci aiuta. Certamente col passare del tempo abbiamo visto che il pesce contiene degli acidi grassi benefici per il nostro organismo, mentre i grassi della carne rossa, poi soprattutto se cotta in modo sbagliato, sono dannosi al nostro organismo. Abbiamo visto che dobbiamo mangiare 5 porzioni di frutta e verdura, abbiamo visto oltretutto nella nuovissima piramide alimentare e soprattutto nella nostra dieta mediterranea, di cui ne parliamo sempre nel nostro libro, che in queste 5 porzioni di frutta e verdura dobbiamo introdurre anche una porzione di frutta secca. La frutta secca una volta si mangiava solamente a Natale, per cui invece oggi diciamo di mangiarla almeno una volta al giorno, soprattutto come merenda, come fine pasto nei bambini e anche negli adulti, perché contiene sostanze benefiche, per cui non è un problema di classismo, ma forse un problema di emancipazione. Abbiamo studiato, per cui anche la nutrizione è andata avanti, sappiamo meglio perché quell'alimento può far bene, può far male o perché dobbiamo assumerlo per fare meglio, in poche parole. Vorrei dire che da un'alimentazione corretta ed equilibrata dipende il giusto accrescimento, l'efficienza lavorativa, la resistenza alle malattie, la qualità della vita e la durata stessa della vita. Tutto, ma un po' di tutto, con il buon senso. Grazie a Cristina Carpinelli per questa intervista, Nicola Sorrentino. Ora è il momento invece di Articolo 9, la nostra rubrica per segnalare un bene italiano da salvare. Questa settimana ci accompagna Alessandra Scaglioni alla scoperta del Parco Agricolo Sud Milano. Via Latte, alla scoperta della strada del latte e dei formaggi nel Parco Agricolo Sud Milano in vista di Expo 2015. Il nome di un'iniziativa organizzata dal FAI, Expo 2015 e dalla CIA per portare i milanesi a conoscere meglio il Parco Agricolo Sud di Milano sabato 1 e domenica 2 ottobre, cioè oggi e domani. Giulia Maria Mozzoni Crespi, presidente onorario del FAI, ci spiega il perché di questa iniziativa. Noi lo facciamo perché i milanesi non sono coscienti di questo straordinario patrimonio agricolo di 47.000 ettari che in parte circonda la nostra città. E noi facciamo finta di niente, non solo, programmiamo 4 strade che devono attraversare questi 47.000 ettari, le quali strade tagliuzzeranno le campagne di modo che i poveri agricoltori non riusciranno a coltivare bene la terra, in più avranno l'inquinamento degli scappamenti che renderanno anche velenosi quanto loro vendano. Ecco, sottolineiamo un attimo questo, cioè spieghiamo bene quali sono i rischi di non riuscire a conservare una parte di questo patrimonio, perché una parte in realtà è già andato, diciamo, una parte di questo patrimonio di territorio che è dedicato all'agricoltura. Io vorrei dire che 38.000 ettari sono ancora coltivati in agricoltura e che Milano ne possiede 4.200 ettari, proprio del comune di Milano, e i comuni compresi nel territorio sono ben 61, ma tutto questo i milanesi non lo sanno. Forse non sanno anche che le aziende agricole dell'interno del parco sono 1.000 e ci sono 393 stalle zootecniche. Forse i milanesi non sanno la spada di Damocle che pende sulla testa degli agricoltori, e cioè i proprietari terrieri che hanno queste terre, ai loro affittuari in gran parte non rinnovano il contratto d'affitto se non per un termine brevissimo di 2 o 3 anni, addirittura di 1 anno. E perché questo? Perché sotto sotto che cosa c'è? Bramosia di cemento, loro pensano e sperano di poter trasformare tutto in villette schiere, in ristoranti e in alberghi. E le vorrei dire quello che ha detto il professor Lassini, l'ha detto l'altro ieri in una serata, che è professore del Politecnico, che se avvenisse una catastrofe Milano ha la possibilità di vivere come derrata alimentare per 1 mese. Capisce? I milanesi queste cose non le sanno, come i milanesi non sanno le bellezze artistiche della zona, 3 meravigliose abbazie romaniche, prima di tutto, filari, piante, acqua, che sono i preziosi fontanili in un'epoca dove l'acqua sta sempre più scarseggiando, e in più questa è una zona per la domenica, per i sabati, per le biciclettate, perché i milanesi che non hanno i mezzi di prendere l'aereo e andare in Sardegna o alle Bermude per il weekend possono andare con i bambini, con la famiglia, con gli anziani. Lei diceva prima il problema dei contratti d'affitto così brevi con la speranza di cementificare, ma non esiste una normativa che garantisce da questo punto di vista? No, ma di solito non era così, perché un agricoltore non può investire in bestiame o aggiustare una cascina se sa tra 1, 2, 3 anni viene cacciato via. Non investe in bestiame, lascia crollare la cascina e tutto va a ramengo. Ci sono comunque dei piani regolatori, degli spazi previsti che devono restare verdi, cioè non dovrebbe già essere garantito uno spazio per l'agricoltura? Sì, certo che è garantito, ma se lei fa 4 strade, super strade, come faccio a coltivare una terra circondata da queste 4 strade? Guardi, gliele enumere. La Brebemi, che è in costruzione e investe il Parco Sud come parallela all'autostrada A4, loro dicono per decocessionare. La TEM, tangenziale esterna Milano, già appaltato, e qui pare che non si torni indietro, anche qui per decocessionare il traffico. Il raccordo statale Mangenta, un progetto ADAS, si può ancora fermare, tocca il Parco Agricolo Sud e il Parco Ticino. E la TOEM, tangenziale ovest, non è partita. La provincia di Milano dice che forse troverà un'alternativa. Maggiori informazioni su questa iniziativa sul sito del FAI, ma vogliamo ricordarvi che su questo tema c'è anche alla Triennale di Milano una mostra promossa dalla Fondazione Cariplo in collaborazione con il Politecnico di Milano. Si intitola Spazi Aperti, un paesaggio per l'Expo, con immagini che sono il risultato di una ricerca per mappare le aree agricole e rurali ai margini della città. Ne riparliamo tra l'altro nella prossima puntata dell'Altro Pianeta, ma per questa settimana è davvero tutto, ne riparleremo la prossima. Per scriverci l'altropianeta@radio24.it, un buon proseguimento d'ascolto da Laura Bettini.